Letture di Radio 24. Osservando i giovani che in qualunque stagione vanno in giro in maniche corte e senza calze, verrebbe da pensare che nel corso degli anni si sia verificata una mutazione antropologica, scrive Alberto Mattioli in un editoriale pubblicato nei giorni scorsi sulla Stampa. Le ragioni, prosegue Mattioli, sono almeno tre. Intanto quella modaiola. E la moda, come insegnava Leopardi, è più forte anche della morte, quindi del tempo con la maiuscola. L'ipsterismo è ormai un isterismo che si accanisce sulle calze, capo di vestiario contro il quale una parte sempre più consistente della popolazione sembra nutrire un'inspiegabile avversione. Qui c'è una curiosa contraddizione, almeno di inverno, quando anche con 10 gradi sotto zero l'ipsterino De Noantri sfoggerà in alto barbone e sciarpone egualmente lussureggianti e in basso pantaloni strappati e niente calze. Figuriamoci con 20 gradi sopra lo zero. In questi giorni a spasso per Montenapo si aggirano giovani signori con completi impeccabili e scarpe griffatissime, intervallati da quei raccapriccianti 5 centimetri di pelle nuda. I ragazzi a scuola, intanto, sono già in infradito. Ci vuole certamente un fisico bestiale, ma in effetti le generazioni più giovani che vivono in palestra trascurando colpevolmente il calcetto, ecco perché non trovano lavoro, direbbe il ministro Poletti, il fisico ce l'hanno e giustamente lo mettono in mostra nel più naturale dei modi, spogliandosi. Poi, anche in questo caso, il merito o la colpa di quel che succede è della globalizzazione. Se a Torino fa ancora effetto vedere qualcuno che vive in maniche corte da marzo a ottobre compresi, a New York è del tutto normale. Lì il nonno gira in cappotto, il figlio in giacca, il figlio del figlio in t-shirt. A Londra in dicembre nei locali si vedono fanciulle con i piedi nudi, che poi, o per l'uso dei tacchi a spillo o per l'abuso di alcol, assumono quella colorazione rossastra che ricorda il roast beef sul carrello degli arrosti del ristorante Simpson, sullo Strand. Insomma, se cambia lo stile di vita, è inevitabile che cambi anche lo stile dell'abbigliamento. Infine, c'è una regione climatica. Come è noto, la madre di tutti i luoghi comuni, non ci sono più le mezze stagioni, è stata confermata dalla scienza. Di conseguenza sono spariti anche i famigerati abiti, appunto, da mezza stagione, dei diversamente giovani, quando si abbandonava lo spiegato siberiano alla Fantozzi, per qualcosa di meno pesante, ma in ogni caso più del fresco di lana estivo. Con la tropicalizzazione della pianura padana, il passaggio dalle nebbie invernali a un'estate torrida con complicazioni monsoniche, è diventato rapidissimo e repentino, con grande gioia dei diversamente anziani, ancora capaci di illudersi che l'estate duri tutto l'anno. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Alberto Mattioli, perché i ragazzi sono in maglietta anche con il freddo, dalla Stampa del 29 marzo. Sono Giugia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giugia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Letture di Radio 24. La parola cyborg, contrazione tra cybernetic e organism, nata nell'ambito della medicina per descrivere l'unione tra esseri umani ed elementi sintetici, è diventata popolare nel campo della fantascienza per indicare sia individui potenziati sia robot umanoidi. Ma ora sembrerebbe che la tanto agognata unione tra uomo e computer stia per diventare reale. Fantascienza o realtà? Sembra sempre più difficile riuscire a distinguere, soprattutto quando a parlare è l'eclettico Elon Musk. Sempre lui, l'esuberante imprenditore e creatore di PayPal, di SpaceX e alle prese con le missioni spaziali per Marte. Anche stavolta, nello scenario prospettato dalle pagine del Wall Street Journal, gli elementi per stupire ci sono tutti. Creare dispositivi da impiantare nel cervello per potenziare le nostre abilità cognitive ed evitare che le intelligenze artificiali ci surclassino rendendoci schiavi. Penso che non manchino più di 4-5 anni per avere un'interfaccia parziale con il cervello, afferma Musk, che ha fondato una startup, la Neuralink, proprio con l'obiettivo di sviluppare sistemi che permettano all'essere umano di fondersi con i computer per tenere il passo delle intelligenze artificiali. L'obiettivo di Neuralink sarebbe in un primo momento quello di potenziare le abilità del cervello umano, per poi passare a sviluppare interfacce in grado di alleviare i sintomi di alcune patologie croniche del cervello, epilessia, Parkinson, eccetera. Non è la prima volta che Musk fa dichiarazioni di questo tipo. Già nel 2016 prospettava il funzionamento del Neural Lace, un laccio neurale costituito da un dispositivo connesso chirurgicamente al cervello umano che permetterebbe all'utente di interagire con i computer senza le limitazioni attuali. Niente più interfacce come tastiere, mouse e schermi, insomma. Musk non è il solo a pensare che i continui velocissimi sviluppi della tecnologia dell'intelligenza artificiale costituisca un pericolo per il genere umano. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale potrebbe significare la fine della razza umana, ha affermato tempo fa il fisico cosmologo Stephen Hawking. Se ne va per conto suo e si ridisegna ad un ritmo sempre crescente. Gli esseri umani, che sono limitati dalla lentezza dell'evoluzione biologica, non potranno competere e verranno superati. Sul concetto di evoluzione, o meglio di coevoluzione con le macchine, si fonda anche il progetto di Brian Johnson, che ha investito 100 milioni di dollari per realizzare una futura protesi neurale per sbloccare tutte le potenzialità del cervello umano e addirittura riprogrammarlo per essere quello che vogliamo essere. La nostra connessione con le nuove tecnologie di intelligenza artificiale è limitata dagli schermi, dalle interfacce gestuali e dai comandi vocali. Siamo costretti dalle modalità di input e output. Il nostro cervello è assai poco accessibile e limita la nostra capacità di coevolvere con le macchine a base di silicio. Per superare queste difficoltà, l'azienda di Johnson è impegnata nella ricerca sul funzionamento del cervello, allo scopo poi di replicare il modo in cui le cellule cerebrali comunicano tra loro. Tra non molto, dunque, potremmo trovarci a vivere in una realtà in cui la maggior parte delle persone avrà un dispositivo impiantato in grado di potenziarne, per esempio, la memoria, un po' alla Black Mirror, insomma, ma anche di compensare i danni provocati da malattie degenerative come Alzheimer, SLA, Parkinson. La domanda è: siamo pronti? Avete ascoltato l'articolo di Mara Magistroni, il nuovo progetto di Elon Musk, fondere il cervello con i computer, pubblicato il 28 marzo sul sito Wired. Tra i problemi che spesso vengono associati all'uso compulsivo dei videogiochi ci sono il rischio di arrivare alla videodipendenza, il distacco progressivo dalla realtà e dalle relazioni sociali, i sintomi di agitazione e di insonnia, riscontrati in chi gioca fino a tarda ora. Ma come dimostrato da alcune recenti ricerche, un uso intelligente dei videogiochi può anche migliorare la flessibilità cognitiva e persino aiutare le persone affette da alcune patologie. Giocare poche ore al giorno e in momenti specifici della giornata, lontano dai pasti, dopo le ore di lavoro o, nel caso dei ragazzi, dopo aver fatto i compiti, può avere molti effetti benefici sulla psiche umana, in modo particolare a livello cognitivo, ma anche dal punto di vista fisico, scrive Fabio Vanacori in un articolo pubblicato sul numero di aprile della rivista Lucidamente, che poi prosegue. Un uso consapevole e guidato dal buon senso è premessa fondamentale per non scivolare nell'abuso. E per questo motivo molte aziende specializzate hanno sviluppato programmi specifici per evitare forme gravi di dipendenza. Nel mondo del gambling, ad esempio, ha sviluppato programmi di gioco responsabile che mettono in sicurezza il giocatore garantendogli di giocare su siti di poker sicuri, legali e regolamentati dall'Agenzia Dogane e Monopoli. Proprio dal poker arriva la storia di William Watcher, un americano di 95 anni, pokerista professionista, che dimostra come i giochi possano giovare positivamente alla mente umana. Watcher, nonostante soffra di cataplessia, una patologia che causa la perdita improvvisa del tono muscolare, è uno tra i più famosi giocatori di poker al mondo. Proprio grazie al gioco è riuscito a tenere attiva la sua mente, ottenendo diversi benefici e riuscendo a contrastare le difficoltà derivate dalla sua malattia. È stato inoltre dimostrato da test e studi scientifici che gli adolescenti che giocano in modo sano ai videogiochi hanno più possibilità di guarire velocemente dall'ambliopia, una malattia che si manifesta nella prima infanzia, meglio conosciuta come occhio pigro, rispetto ai loro coetanei che non hanno mai giocato e stimolato quindi entrambi gli occhi con un videogame. I benefici che videogiochi e giochi online possono apportare sono davvero numerosi. Migliorano la flessibilità cognitiva, l'attenzione e la memoria, ottimizzando le prestazioni sul posto di lavoro, soprattutto in quelle professioni che richiedono una buona coordinazione oculomotoria, attenzione, eccellente memoria di lavoro e rapidità decisionale. Ma non solo. Molti giochi sono utili anche a sviluppare una migliore capacità motoria. Sono infatti noti gli effetti positivi di tutti quei giochi interattivi basati sullo sport o attività in cui l'essere umano è invitato in prima persona a utilizzare altre parti del corpo per giocare. Con la realtà virtuale, poi, l'esperienza di gioco e i benefici raddoppiano. Infatti, è possibile giocare a un videogame senza utilizzare gli stimoli sensoriali, vista, udito o tatto, ma sfruttando invece informazioni trasmesse dal computer direttamente al cervello. Questo potrebbe permettere in futuro ai ricercatori e agli scienziati una stimolazione non invasiva del cervello, che di conseguenza si tradurrebbe nello sviluppo di nuove protesi o, semplicemente, di apparecchi per la realtà virtuale ancora più realistici. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Fabio Vanacore, Gaming Addiction. Si può giocare in modo sano? Dal numero di aprile della rivista Lucidamente. Spesso si dice che fare uso di videogiochi violenti aumenti l'aggressività, ma uno studio recente dimostrerebbe il contrario. Come riportato in un articolo pubblicato sul sito della rivista Mente e Cervello, l'uso intenso di videogiochi violenti non desensibilizza nei confronti degli stimoli emotivi, non aumenta l'aggressività né attenua le capacità empatiche delle persone, se non a brevissimo termine. E questa è la conclusione a cui è giunto un gruppo di ricercatori delle università di Hannover e di Lubecca. Alcune ricerche condotte in passato hanno dimostrato che le persone che usano regolarmente videogiochi violenti possono desensibilizzarsi nei confronti della violenza e mostrare una diminuzione dell'empatia. Tuttavia, quasi tutti questi studi hanno indagato solo gli effetti a breve termine dei videogiochi violenti, studiando soggetti che avevano giocato poco prima del test, se non addirittura durante. Gregor Zicic e colleghi hanno invece esaminato gli effetti a lungo termine, studiando un gruppo di giocatori che nei 4 anni precedenti avevano usato videogiochi violenti almeno 2 ore al giorno, ma sottoponendoli ai test solo ad almeno 3 ore di distanza dall'ultima sessione di gioco. Per valutare la loro capacità di empatia e l'aggressività, i partecipanti hanno risposto a questionari psicologici e poi sono stati sottoposti a scansione con risonanza magnetica per misurare l'attivazione di specifiche regioni cerebrali mentre veniva loro mostrata una serie di immagini atte a provocare una risposta emotiva ed empatica. Il questionario psicologico non ha rivelato differenze nel livello di aggressività e di empatia tra i giocatori e un gruppo di controllo di non giocatori. E le risonanze magnetiche funzionali hanno mostrato che giocatori e non giocatori avevano risposte neurali simili alle immagini emotivamente cariche. E quello che avete ascoltato era l'articolo «I videogiochi violenti non riducono l'empatia», pubblicato l'8 marzo sul sito della rivista Mente e Cervello.